la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui alle 16.30, primi 37 secondi dagli studi di Milano. Scaginino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per domande, proposte, temi e per candidarvi a intervenire nelle trasmissioni Italia non per giovani che avete sentito in queste settimane. Vi propongono storie di chi se n'è andato e perché, o da chi non se ne va e perché, malgrado pensi che le occasioni di formazione e di lavoro per chi ha più giovane età nel nostro paese non siano molto redditizie. Non vi devo ripetere, l'avete sentito le trasmissioni, quindi scrivete. Oggi nel frattempo è in corso la direzione del PD e i lavori sono cominciati poco dopo le 15. Renzi ha chiesto il congresso prima del voto, ha detto con grande chiarezza che tutte le illazioni giornalistiche di questo mese sulla sua volontà della data del voto sono infondate, non è lui che decide il voto, ha confermato piena fiducia a Gentiloni, ha ribadito che ritiene assolutamente fondata la mozione firmata da una quarantina di deputati renziani dicendo al governo Gentiloni non dovete alzare le tasse e le accise, ha fatto un vastissimo scenario iniziale sugli attacchi alla società aperta che vengono in questa nuova fase da Trump, Le Pen e così via, chiedendo un congresso su questi temi, chiedendo un congresso nel quale ha ribadito però ci deve essere una regola che vale per tutti: chi poi perde al congresso dopo essersi candidato alla leadership non deve scappare via con il pallone, come ha detto con riferimenti polemici a quello che è accaduto alle ultime comunali anche a Roma, e quindi dicendo la sfida è aperta, io voglio girare per il popolo del PD. E candidatevi pure, portate al tesseramento che è aperto fino al 28 di febbraio nuovi iscritti, ma il PD ha un grande ruolo in Italia e in Europa, e questo ruolo è quello per la società aperta. Io parlerò di questi, di grandi temi europei e mondiali, non delle minuzie interne. Non sono e non sarò mai, ha detto, il segretario dei caminetti delle correnti, per questo scegliete altri se preferite quello. Io sono per una sfida aperta, chi vince governa il partito. Si è soffermato a lungo anche sui temi del patto di stabilità europea, ha detto la procedura di infrazione va evitata, su questo la penso come Padoan, ha ragione Padoan, però bisogna trattare fino allo sfinimento, e ha lanciato alcune proposte su come cambiare poi in prospettiva il patto di stabilità europea, non solo gli investimenti fuori dalla linea per la cifra che conta per il deficit infrastrutturale, ma anche le spese per la difesa, ma anche quelle per la cultura, ma anche quelle per le periferie, perché l'Europa, ha detto, deve arrivare al cuore di chi sta peggio. Resta da chiedere che cosa resta a quel punto nel patto di stabilità, ma non faccio commenti, ne parleremo domani mattina con Alessandro Milan, perché la direzione è ben lungi dall'essere finita, quindi grande attenzione ai successivi interventi, vedremo come si svilupperà il dibattito. La trasmissione di oggi invece nasce da uno stimolo molto forte che mi è venuto ieri sul Sole 24 Ore, leggendo la pubblicazione di un lavoro di elaborazione dei dati delle forze di lavoro complessive italiane stratificate in tre diversi gruppi, una prima società, una seconda società e una terza società, elaborati dalla Fondazione IUM e che fa riferimento al professor Luca Ricolfi, e poi con il commento del professor Ricolfi stesso. In particolare, adesso vedremo in base a quali criteri è stata identificato questa prima società italiana, la seconda società italiana e la terza società italiana. La terza società mi ha fatto chiaramente venire in mente il terzo Stato, ve lo ricordate, quello che per così dire acquisì consapevolezza dei suoi diritti e poi li esercitò con la convocazione degli Stati Generali nel 1789 in Francia. In particolare uno dei tre libelli che tra la fine del 1788 e l'inizio del 1789 89 portarono alla ribalta e lì rimase per tutta la rivoluzione francese, andando poi in esilio nella restaurazione, poi tornando con Napoleone, l'abate Seyer. L'abate Seyer scrisse nel gennaio 1789 un pamphlet, un libello, che è entrato nei fondamenti della storia della rivoluzione francese e dei passi avanti dell'evoluzione dei diritti di chi ha meno, ed era proprio intitolato su Il Terzo Stato, e iniziava con una frase fulminea, nello spirito appunto della pamflettistica francese, che diceva tutto, perché si chiedeva all'inizio: che cos'è il terzo Stato nella Francia di oggi? Tutto. Che cosa ha significato nell'ordinamento della Francia fino a questo momento? Nulla. Che cosa chiede oggi il terzo Stato? Di contare qualcosa. Ecco, questa era la frase iniziale dell'abate Seyer, e questo mi è venuto in mente leggendo questa stratificazione, questa proposta di interpretazione della società italiana complessiva, articolata in tre società. Credo che sia stato voluto non chiamarlo terzo Stato, perché ovviamente non c'è oggi la nobiltà che ha tutte le prerogative e così via, però insomma prima, seconda e terza società mi hanno evocato immediatamente questa tassonomia dei tempi del 1789. Allora, per tentare di capire come è stata fatta questa lettura e che cosa vuol dire nella società italiana di oggi, che problemi pone di politica economica, politica sociale, welfare in Italia e in Europa, mi sono detto: sentiamo direttamente chi ispira i lavori della Fondazione IUM e poi ieri li ha commentati. Quindi è con noi il professor Luca Rigolfi, io molto ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio, che insegna all'Università di Torino. Buon pomeriggio, professore. Buongiorno. Allora, come nasce questa idea della prima, seconda e terza società e con che criteri li avete individuati? Ma intanto nasce da un po', cioè io avevo già scritto un libro sulle tre società una decina di anni fa, anche se allora la terza società era caratterizzata in modo un pochino diverso, però bisogna dire che l'origine di tutto risale addirittura 40 anni fa, quando Alberto Asorrosa scrive un articolo sull'Unità dopo la contestazione a Lama del 1977, e poi questo articolo viene pubblicato come libro insieme ad altri articoli da Einaudi con il titolo La seconda società, o meglio Le due società, era il titolo originario di questa opera di Asorrosa, e lì c'era già molto di più della teoria del dualismo del mercato del lavoro. C'era l'idea di una spaccatura forte tra i ceti rappresentati dalla sinistra, allora Partito Comunista, che erano ceti garantiti, e i ceti non rappresentati e non garantiti, che in quell'epoca erano soprattutto studenti, precari, operai. Poi col passare del tempo di questa proposta di Asorrosa si è parlato pochissimo. Io la ripresi una decina di anni fa per dire che forse l'articolazione della società italiana è in tre società e non in due, perché abbiamo una società delle garanzie, e lì siamo più o meno a quello che diceva già Asorrosa nel 77. Poi c'è una seconda società molto importante, di cui si è tanto parlato nella Seconda Repubblica, che è la cosiddetta società del rischio, cioè coloro che non hanno ombrelli o reti protettive, come i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti privati delle piccole imprese non tutelati dallo statuto dei lavoratori, e poi anche qualcosina nelle imprese grandi, cioè i precari, che sono tantissimi, però ci sono. E questa è la seconda società, o società del rischio. Sono persone che esposte alle turbulenze del mercato, diciamo così. A differenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati delle grandi imprese stabilizzati, che stanno nel sistema delle garanzie. Ma accanto a queste due società, che hanno anche un orientamento politico abbastanza preciso, perché la società delle garanzie guarda a sinistra e la società del rischio guarda a destra, dicevo, accanto a queste due società, prima e seconda, c'è la terza, che io ho definito sinteticamente come la società degli esclusi. Esclusi cosa vuol dire, però? Vuol dire qualcosa di abbastanza preciso. Tre segmenti dentro l'esclusione, cioè il lavoro nero, la disoccupazione, dove per disoccupazione si intende quello che intende l'Istat, cioè coloro che non hanno il lavoro o l'hanno perso e sono alla ricerca attiva di lavoro, che sono attivi sul mercato del lavoro, e questi due segmenti sono già 3 milioni di persone a testa per ciascuno di essi. E poi c'è il terzo segmento, forse il più interessante, che è quello che gli studiosi del mercato del lavoro spesso hanno chiamato degli scoraggiati, cioè persone che cercherebbero lavoro, lo hanno cercato in passato, che sarebbero disposte a lavorare, ma hanno smesso di cercarlo attivamente. Messe insieme queste tre componenti, sfioriamo i 10 milioni di persone, quindi abbiamo 10 milioni di persone alla prima società, altri 10 milioni di persone alla seconda e quasi 10 milioni di persone nella terza. Quindi una tripartizione nella quale, diciamo, tra la società del rischio, tra l'altro, io fa una certa impressione in questa seconda società, cioè quella dei lavoratori autonomi regolari, dei dipendenti regolari stabili nelle piccole imprese, dei dipendenti temporanei regolari, andare a vedere che il reddito familiare a prezzi costanti con la base del 2003 uguale 100, per il reddito lavoro autonomo da base 100 del 2003 alla fine del 2014 eravamo scesi a 67-68, questo dà l'idea di che cosa è successo in un segmento fondamentale della società del rischio, la seconda società. Beh, infatti l'unica società che ha retto in realtà è un po' quella delle garanzie e un po' chi sta fuori di ogni società, cioè i pensionati. I pensionati che stanno fuori dal mercato del lavoro, sono ritirati dal lavoro, quello è il segmento della società italiana che ha tenuto di più. Però quello che mi ha colpito è che i tre aggregati sono praticamente equivalenti, cioè se uno somma i 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni, se uno somma chi ha perso tantissimo reddito nel secondo segmento, l'ho detto, gli autonomi, e la condizione degli inattivi, dei disoccupati che lavorano in nero e dei disoccupati vero, cioè la terza società è 10 milioni, beh, noi abbiamo 10 milioni e a quel punto 5 milioni di lavoratori autonomi regolari che sono praticamente la metà del totale delle tre società. Assolutamente, assolutamente. Comunque le due società del rischio dell'esclusione sono i due terzi delle persone presenti sul mercato del lavoro, sono maggioranza, sono netta maggioranza. Allora, senza dubbio. Per capirci, questo significa, la dico ma non per polemica politica, per vedere se ho capito bene, che se uno deve misurare, per esempio, è ricorso anche nell'intervento iniziale della direzione di Matteo Renzi, il bilancio, l'impatto, le conseguenze del Jobs Act e della massiccia decontribuzione alle imprese italiane per 2 anni, deve avere come riferimento però questa stratigrafia più complessa, non solo quella dei dipendenti stabili e di coloro che sono passati da contratti a tempo a quello alle tutele crescenti. Ed ecco che a quel punto, se la misuriamo sul campione delle tre società, non sul campione, sul totale delle tre società, cioè su 30 milioni di individui, i 485.000 posti di lavoro aggiuntivo, di cui 380.000 a tempo a tutele crescenti aggiuntivi in 2 anni, beh, oddio, rispetto alle risorse che abbiamo speso appaiono... No, è assolutamente irrisorio, però ecco. È anche molto chiara la logica politica, cioè la sinistra fondamentalmente difende la società delle garanzie e non le importa nulla della terza società. E questo si è visto fin dall'inizio, perché quando è stato deciso di... Lei lo sa che ha dato un giudizio politico che farebbe imbizzarrire tutti gli rappresentanti della sinistra, Sì, sì, vabbè, che si imbizzarriscano pure. Ma voglio dire, quando furono dati gli 80 euro, era già chiaro allora cosa si stava scegliendo. Perché c'erano due obiezioni. Una, diciamo così, da destra, tra virgolette, che diceva meglio metterli nell'IRAP, in una riduzione dell'IRAP che almeno si dà ossigeno alle imprese che riprendono a investire e a quel punto abbiamo una crescita non drogata, perché indotta da un miglioramento dei bilanci aziendali. Questa era l'idea di Morando nel governo, no? Che tra l'altro è un esponente del PD. Sì. L'altra posizione degli studiosi di povertà, esclusione sociale, era era questa, era di dire: ma voi siete matti, voi cari signori di sinistra, perché voi dite di difendere i deboli, ma i veri deboli con questo provvedimento non li acchiappate, perché per avere una riduzione fiscale bisogna pagare delle tasse. E le persone che guadagnano meno di 10.000 euro, i cosiddetti incapienti, non hanno capacità contributiva e quindi non saranno minimamente toccati dal bonus di 80 euro. E lì è stato deciso di sostenere il ceto medio-basso, cioè chi aveva un reddito sufficiente a poter beneficiare dello sgravio, che è perfettamente coerente con la politica della sinistra in tutti questi decenni, non è mica colpa di Renzi. La sinistra guarda sempre di più ai ceti medi riflessivi, come li chiamava Ginsburg, ai garantiti, ma degli ultimi non si preoccupa minimamente. Nella terza società ci sono soprattutto gli ultimi, anche se non solo, perché una cosa che io sottolineo nel mio pezzo è che c'è un pezzetto non piccolissimo della terza società che è anch'esso ceto medio, perché quelli cosiddetti scoraggiati in parte sono scoraggiati e disperati e basta. In parte sono giovani, soprattutto e donne, che si possono permettere il lusso di non lavorare, di non cercare lavoro. Quindi non è che la terza società è tutta ultimi. C'è una componente di ceto medio che comunque vive in ogni caso delle dinamiche di esclusione, perché se io il lavoro non riesco a trovarlo, comunque sto fuori del circuito. Che magari vive anche grazie all'unità più bassa di integrazione dei redditi, che poi la famiglia nel nostro paese, grazie al patrimonio dei padri, dei nonni e così via. Vive grazie al fatto che ci sono dei pensionati che mantengono talora due generazioni più giovani, e poi c'è questo enorme patrimonio familiare che in pochissimi paesi dell'Occidente è consistente come l'Italia. Questo è il motivo per cui non succede mai nulla, perché noi metteremo 20 anni a esaurire ciò che i nostri genitori, nonni e noi stessi abbiamo accumulato. Quindi, anche se ahimè abbiamo... Il declino è lento. Il declino è lento, quindi è come se avessimo un salvagente, però intanto abbiamo iniziato... Si sgonfia lentamente. Ecco, però si sgonfia, questo è il punto, anno dopo anno. Sì, si sgonfia. Allora, dopo il minuto di traffico, una domanda che faccio al professor Ricolfi. Questa stratigrafia e l'analisi quindi di quello che abbiamo fatto fino a questo momento, e quindi questa terza società, che a mio giudizio spiega molto anche poi di cosa succede alle elezioni, eccetera, eccetera, ma al di là di questo pone un radicale problema di riorientamento delle misure, non solo pubbliche, ma anche l'idea che lo Stato da solo non ce la fa e quindi c'è bisogno di una filosofia di tipo diverso, un mix di strumenti radicalmente diverso rispetto a quello di oggi. Qui non stiamo facendo critica di partito e di governo, stiamo tentando di capire che cosa questi dati ci consegnano di questi tre aggregati che sono equivalenti dal punto di vista della composizione 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni, ma che sono totalmente divergenti rispetto alle tutele e al reddito. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati insieme al professor Luca Ricolfi. Ieri sul Sole la pubblicazione di una pagina intera fitta fitta della sintesi del rapporto della Fondazione IUM su i 9 milioni di esclusi, la terza società in Italia, con una prima società di 10 milioni di individui, una seconda società di poco più di 10, un po' meno di 11 e una terza società di esclusi. Quanto è cresciuto in questi anni di crisi la terza società secondo i vostri conti, professor Ricolfi? Ma secondo i nostri conti aveva raggiunto un minimo di medio periodo intorno al 2004, 2005, 2006 e poi quindi era sui 6 milioni e poi è cresciuta quasi del 50% nel giro di 7 anni. Dal 2007 al 2014 c'è stata un'esplosione in corrispondenza della crisi. E tra l'altro noi abbiamo fatto anche un tentativo di ricostruzione a ritroso che io sto continuando addirittura fino al 1951, quindi tutto il dopoguerra praticamente. E la cosa interessante è che ci sono stati vari momenti in cui la terza società esplosa, si è espansa in Italia. seguiti da dei periodi di contrazione, cioè gli altri due grandi momenti di espansione della terza società sono stati la fine degli anni 60, forse non a caso coincisa con... Esplosa poi con il 68. Con l'onda del 68, il ciclo di lotte operaie, poi il femminismo, eccetera. E poi l'altro grande momento di esplosione è tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, dove abbiamo avuto Tangentopoli, cambio della prima alla seconda Repubblica. Questa è la terza onda, però la cosa preoccupante è che questa terza onda le ha fatto raggiungere il massimo storico, cioè l'ampiezza della terza società anche nelle due onde anomale non era arrivata a questa consistenza. Non era arrivata a questa consistenza, mai, non era mai successo. E a questo punto la domanda, io adesso non le chiedo perché nessuno, quindi immagino neanche lei, sarebbe non rispettare la stima che le porto, chiederle ma se dopo quella degli anni 60 è venuto il 68, adesso cosa avviene adesso? Queste sono cose che vedremo. Secondo me ci sono tanti segni, ripeto, dai comportamenti elettorali all'aria che tira non solo nel nostro paese. Ma detto tutto questo, questo però obbliga lo scienziato sociale a immaginare, se dovesse fare il consulente o di un politico, un mix di strumenti rispetto a questa consistenza mai raggiunta nell'intero dopoguerra italiano, sia pure in presenza di livelli di reddito pro capite completamente diversi. Però detto questo, un mix di strumenti radicalmente diversi rispetto a quelli che abbiamo visto fino a questo momento, o no? Ma sì, penso di sì, ma in varie direzioni. Cioè, una cosa che noi dovremmo cominciare a prendere in considerazione è di affrontare il problema della povertà in maniera radicale e diretta, perché nonostante quello che si pensa, una eliminazione della povertà in Italia non costerebbe tantissimi soldi. E questo è un aspetto, perché dentro la terza società ci sono i veri poveri, cioè quelli che stanno al di sotto della soglia di povertà assoluta. Questo non è facilissimo fare delle politiche contro la povertà, però quello che mi ha colpito è che facendo un po' di conti macroeconomici, il costo ad esempio come di ordine di grandezza negativa, per far capire chi è a casa rispetto ai 9 milioni della terza società stimati da Fondazione IUM, stiamo parlando di un 50%, 1.600.000 famiglie, 4 milioni a rotte di individui, più o meno è come ordine di grandezza. Sì, questo è l'ordine di grandezza, potrebbe essere circa la metà, sì, della terza società. E lì qualcosa si può fare, ad esempio con l'imposta negativa, esatto, a mio parere. Però questa è una linea di ragionamento. L'altra linea di ragionamento è la crescita, perché qui siamo un po' di fronte a un bivio: o cambiamo poco, che è al 99% la cosa più probabile, cioè io scommetterei il 99 contro uno che verrà cambiato poco in Italia, come è stato cambiato poco negli ultimi 20 anni, o cambiamo poco e allora continuiamo questo lento sprofondamento e la crescita non riparte e si dovrà semplicemente evitare che il numero di poveri cresca troppo. L'altra possibilità è che invece si combini qualcosa, ma a me risulta che l'unica cosa che è risultata efficace in questi anni di cosiddetta austerità in Europa, ma non solo in Europa, io sto lavorando su tutti i paesi OCSE, oltre che sui paesi europei OCSE e non OCSE, l'unica cosa che è risultata efficace, cioè che ha rilanciato la crescita nei paesi, è la riduzione del perimetro pubblico. Già. Cioè se noi prendiamo un indicatore molto semplice, che è la somma delle uscite delle uscite correnti della pubblica amministrazione al netto degli interessi sul debito, più la somma delle entrate della pubblica amministrazione, e facciamo il rapporto col PIL, questa grandezza macroeconomica che sfiora il 90% in Italia, in alcuni paesi è aumentata, in alcuni paesi è diminuita. Nei paesi in cui è aumentata, come l'Italia, la crescita si è fermata. Nei paesi in cui è diminuita in modo apprezzabile vuol dire 2, 3, 4 punti di PIL, la crescita è ripartita. Cioè paesi come la Germania, o il Regno Unito o l'Irlanda, sono tutti paesi in cui il perimetro della pubblica amministrazione si è ridotto. E i paesi in cui la crescita non è ripartita sono paesi in cui il perimetro della pubblica amministrazione è aumentato. Tra l'altro non pensiamo sempre solo ai PIGS mediterranei, perché anche la Finlandia rientra in questo caso. Sì. Quel paese che era considerato un modello, cosa ha scelto di fare negli anni dell'austerità? Di aumentare il perimetro pubblico. Infatti è inchiodato e agli ultimissimi posti insieme a Italia, Grecia e Finlandia sono le tre pecore nere dell'Europa. Quindi lì ci sarebbe una strada, cioè l'evidenza empirica a sostegno di quello che sto dicendo è enorme, è sconcertante. Però noi continuiamo a dire che invece ci devono dare più flessibilità. E professore, me lo lasci dire, l'aria che tira, potentissima, come si vede nell'osservatorio qui, che non è statisticamente rappresentante, se non però di un campione di chi non rappresenta l'Italia come campione statistico, ma rappresenta un campione di chi esercita la voice, entra nel dibattito pubblico, anche gli ascoltatori di Radio 24 la pensano all'opposto, cioè dicono ma certo, qui ci vuole Keynes, no? Stato, più Stato, salti l'odioso patto di stabilità europea, l'euro, eccetera, deficit libero, debito libero. Tutta colpa della Merkel. Esatto, e questo è però la dice lunga su come siamo messi. Ma... Però io vorrei dire una cosa anche su Renzi e i renziani e questo appello a non aumentare le tasse. Mi permetto di dire una cosa che è di una ipocrisia sconvolgente questo richiamo, perché le tasse le dobbiamo aumentare, ce lo chiede l'Europa, ma semplicemente perché abbiamo aumentato le spese nel triennio renziano. Lo so, professor Grossi, abbiamo passato tutto il periodo prima del referendum a aumentare la spesa per catturare voti e poi ci stupiamo adesso che si debbano aumentare. Siamo le in minoranza a ricordarlo, veniamo accusati prima di essere gufi e poi travolti da chi dice che è la colpa della Merkel. Comunque, intanto andate sul sito Il Sole e trovate sia il rapporto, la sintesi del rapporto, sia l'interpretazione del professor Luca Ricolfi. Quindi andate perché vale molto la pena di capire com'è messa l'Italia oggi. Grazie professor Ricolfi, continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro Milan domani mattina alle 8:20, l'attenti a noi due.